Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la puntata di mezzo di Eclettica, quella del mercoledì, sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni, tutti i giorni, fra le 19 e le 20. Giulio è radiorockfm.com. È l'indirizzo di email per raggiungermi e per iscrivervi alla lista nera che vi permette di ricevere settimana per settimana le playlist, cioè l'elenco di canzoni, di film e di letture che caratterizzano la trasmissione. Questa settimana i film è Il Ciclone e le letture sono di Bruce Springsteen. Ce ne siamo andati dalla classe. Dovevamo allontanarci da quegli stupidi. Abbiamo imparato più da un disco di 3 minuti che da tutto quello che abbiamo studiato a scuola. Stanotte mi arriva il suono della batteria del mio vicino. Posso sentire il mio cuore che inizia a pulsare. Tu dici che sei stanca e vuoi solo chiudere gli occhi e seguire i tuoi sogni fino in fondo. Abbiamo fatto una promessa. Abbiamo giurato che l'avremmo mantenuta. Nessuna ritirata, credimi, nessuna resa. Come soldati in una notte d'inverno con un giuramento da rispettare. Nessuna ritirata, credimi, nessuna resa. Adesso giovani facce diventano tristi e vecchie e cuori in fiamme si raffreddano. Noi giurammo, fratelli di sangue, contro il vento. Sono pronto a ritornare di nuovo giovane e ascoltare la voce di tua sorella che ci chiama a casa attraverso i campi aperti. Credo che possiamo ritagliarci un posticino tutto nostro con questa batteria e queste chitarre. Le luci della strada stanotte si fanno più tenui, le pareti della mia stanza si restringono, ma è bello vedere il tuo sorriso e sentire di nuovo la tua voce. Possiamo dormire nel crepuscolo, in riva al fiume, con una terra sconfinata e libera nei nostri cuori e questi sogni romantici nelle nostre menti. Abbiamo fatto una promessa, abbiamo giurato che l'avremmo mantenuta. Nessuna ritirata, credimi, nessuna resa. Fratelli di sangue in una notte di tempesta con un giuramento da rispettare. Nessuna ritirata, credimi, nessuna resa. Questa era No Surrender di Bruce Springsteen. She said it's not about you, it's not about you, it's me. She said it's not about you, it's not about you, it's me. And sometimes it's good, and sometimes it's bad. But living with you, what is driving me mad? And sometimes it's good, and sometimes it's bad. But living with you, what is becoming a drag? She's a beautiful smile, she's the gleam in your eye. Dresses like a princess, playing games in your mind. Falling out of her top, runs her hand through her hair. Playing so hard to get, cause she knows that you care. I don't know how to love you more, how to love you more, how to love you more, my friend. I don't know how to love you more, how to love you more, how to love you more, my. I guess we got nothing to say. I guess we got Sometimes it's good, and sometimes it's bad. But living with you, what is driving me mad? And sometimes it's good, and sometimes it's bad. But living with you, what is making me sad? So is this how it ends? Well, nobody knows. She'll be gone for a year, and we'll see how it goes. Moving out of your flat, slipping right through your hands. She's a difficult girl, and you're a silly young man. I don't know how to love you more, how to love you more, how to love you more, my friend. I don't know how to love you more, how to love you more, how to love you more. E stasera, e solo questa sera, dovrai far finta di essere la mia fidanzata, per cui comportati per bene. Non ti preoccupare, la facciamo schiattare d'invidia la spagnola. Ah, andiamo in scena. Buonasera a tutti, spagnoli e non! Thank you. Quest'oggi Ecletica si è aperta con gli Scouting for Girls. Era da un po' di tempo che non riascoltavamo It's Not About You, ed è poi proseguita con un estratto dall'ultimo album dei Pinback, nuova uscita in questa tarda estate, From Nothing to Nowhere. Per proseguire invece con un brano che sta per arrivare, che è un po' particolare. La formazione è una formazione punk, fra il punk e il power pop di Princeton, New Jersey. Si chiamano Home Blitz e il pezzo che ascolteremo è intitolato Hey. Formazione assolutamente sgangherata nei suoni, come state per sentire, ma anche nell'attitudine. Veramente non penso mi sia mai capitato di sentire un brano registrato in studio, quindi non in una sessione live, in cui il cantante si ferma all'improvviso, quindi tutto il resto del gruppo si ferma perché ha bisogno di prendere un chewing gum, get some gum, e poi la canzone dopo qualche secondo riprende, ma non esattamente dal punto in cui era stata lasciata. Intrigante. Gotta get some gum. One second. Sometimes I wanna be a receipt girl, happy gloves all the time, but that's lonely. Rangers si sono riuniti ad Harlem ieri notte e Magic Rat ha guidato la sua macchina tirata lucido oltre il confine del Jersey. Una ragazza scalza è seduta sul cofano di una Dodge, beve birra calda sotto la soffice pioggia estiva. Rat entra in città, si alza i pantaloni. Insieme cercheranno di incominciare una storia d'amore e scompariranno giù per Flamingo Lane. Bene, le massime autorità corrono giù per Flamingo alla ricerca di Rat e della ragazza scalza. E i ragazzi qui attorno sembrano come ombre, sempre calmi, mano nella mano. Dalle chiese alle prigioni, stanotte tutto è silenzio nel mondo, mentre noi prendiamo il nostro posto, giù, nella giungla d'asfalto. La gang di mezzanotte è al completo e, fissato un appuntamento per la notte, si incontreranno sotto la gigantesca insegna della Exxon, che manda questa buona luce di città. Amico, danno un'opera fuori, sull'autostrada, e si combatte danzando giù nel vicolo davanti ai poliziotti locali. Squarcia questa notte benedetta, la strada è viva. Mentre i debiti segreti vengono pagati, si stabiliscono contatti, svaniscono non visti. I ragazzi fanno luccicare le chitarre come fossero coltelli a seramanico, si spingono per gli amplificatori. Gli affamati perseguitati esplodono nelle rock and roll band, si fronteggiano l'un l'altro nelle strade della giungla d'asfalto. Nel parcheggio I visionari si vestono della nuova rabbia. Nella strada secondaria le ragazze ballano ai dischi proposti dal DJ. Amanti con la tristezza nel cuore si dimenano negli angoli bui, disperati, mentre la notte avanza. Solo uno sguardo e un sospiro e sono spariti. Questo era l'incipit di Jungle Land di Bruce Springsteen. Thank you. Dark in the Memory, questo è il titolo degli scozzesi The Twilight Sad, appena ascoltati all'interno di Eclettica. Giulio Caperdoni in vostra compagnia ancora per qualche minuto, prima di una breve pausa per poi iniziare la seconda parte di quest'oggi. Questi minuti li stiamo per passare assieme ad Amina, quartetto islandese, un quartetto di archi diventato noto per aver accompagnato in tour i Sigur Rós, che ora ha pubblicato invece un album a proprio nome. Di solito ci ascoltavamo Sex Faldur, ma quest'oggi un'altra scelta. Si tratta di Seul. Thank you. quando Carlina si inventò di sana pianta il nostro primo rapporto sessuale. E mi rivoltava, ma che era? Era una furia, ma che era? Era uno stallone. Alla fine, dopo 2 ore di sesso sfrenato, lo sai che cosa ha avuto il coraggio di chiedermi? Ma dillo a tutti, non solo a lei. No, io lo devo dire alla spagnola. Ha avuto il coraggio di chiedermi... Ancora...